Già, non volevo lasciare la strada recuperare. Ah, è l'animo, ho capito. E mangia qui, aspetta che poi va bene di nuovo. Manda adesso, prima manda adesso, com'è che poi vada di nuovo? Prima, uno è questo. Se io ti faccio così, com'è? Va. Si è aumentato da 5,2 a 5,7, dai. Comunque, diciamo da 5,5 a 6 per il mio apparato, per il mio strumento, Signal Tracker. Ecco sì, quello con l'antenna, con l'antenna di battaglia. Io sono sempre con la mantova, se devo fare buco, io qua metto direttamente, io metto quella che c'ho più in alto, quella come si chiama, stellare. Quella, dunque, vediamo un po', si stavo i 24 radiali, quella lì, che sembra un ombrello giapponese. Sì, ho capito, quella è quell'altra, là. Adesso si è con quella parte. E tu che ti hai aiutato, Luca? No, stavo guardando il messaggio, ma è in base al segnale. Tutta la mia voi, se lei deve regolare il rometro e ti dice che potenza c'hai, e poi l'apparato ti dà entro i 10 watt, allora prendi il tasto di 10 watt. Se ti dà entro i 50, prendi il tasto di 50. Questa è la potenza. Comunque poi se ne parliamo in laboratorio, guarda. Intanto lo devi portare. Adesso recupero anche Gio Maria e mi porta l'altro. Perché mi sembra che ne ha dato uno anche Gio Maria, vero? Questo te lo frega. Buongiorno dollaro, auguri belli a te, famiglia, Manolo, a lei famiglia. Grazie, dottor Nino, come va? Sì, ci siamo già salutati stamattina. Tutto bene, grazie a Dio, anche da voi spero, sì. Ma tutto pappa. Allora l'importante è quello, che ci sia la pappa, il tavolo ben apparecchiato era. Guarda che io ho delle cune qua, se c'è qualche gamba assorta dimmelo, eh. Tutto a posto, non ci sono problemi. Stavo di ragione. Se no facciamo venire a Giulio con la pralla e mette tutti e quattro i piedi e si sistema subito, guarda. No, vado bene dove sono, ma no, non ci sono problemi. Vai giù. Ciao Giulio, auguri a te famiglia. Bene, bene. Quando riempie un bicchiere e da una parte cola, cosa vuol dire? Ecco. Buonasera Giulio, buonasera anche alla ruota, non so chi ci sia questa frequenza. Sono entrato giusto a chiedere un piccolo controllino di radio a vedere come stavo uscendo, non so qua. Avanti. Ma perché per me ci sono forse più lontano? No, più lontano c'è Torino. Ciao, ciao, Bruno, ciao. Capo, ascolta, dollaro, come sto uscendo di radio? Sto provando il microfono, a vedere come sto andando, tutto qua. Funziona per la tutta, va benissimo così. Chiaro, forte, senza sovrammazione niente, a posto. Giusto. Grazie, ti contraccambio il controllo. Giulio, per te 920 Radio Super 5 Ultima, salutando tutti gli amici. Ok, ok Franco, tanti auguri anche a te. La 50 di Teresa sei, sì. Caffè positivo, gli auguri contraccambiati sia da parte mia che da parte della mia 50, auguri anche a tutti quanti voi e anche a tutti che sono in ascolto. Ok, alla signora glielo ho dato stamattina gli auguri, ci siamo fatti una bella conversazione. E stai attento a me, stai attento. Capo, perché? Perché io sono vedo e stai con me, anche se ho 60 anni non si sa mai. Vabbè, là, ok. Un attimino sto sistemando una questione, là. D'accordo, siamo qua. Avanti con me. Capa Rogere, ciao Fra, salutoni, auguro di belli a tua famiglia, capa capa, cioè. Vai, ecco. La cosa è questo, il cane sono io. perché qua il falegname sta facendo come il santo, capito? Dice che la gente la sposa perché lui era gobbo, questo non lo capiscono. Allora qua perché giù c'è una mattonella storta, il tavolo deve essere storto. Un attimo che hanno buttato. No, quello perché il mattone era scarso, era, e adesso la mattonella è un pochino male, allora il tavolo non balcolla per questo, capito? Ricorda che tu quel collavo quando lo faccio io è fatto, perché io lo metto in un posto che è veramente in piano, tranquillo, finisco, quindi le zampe, le gambe sono fatte tutte a misura della macchina, dunque anche volendo non potrei sbagliarle, perciò. Mi fa tanto che andate a braccetto tutti e due con il falegname e col muratore e tutte e le gambe e le casse vengono tutte storte, altro che gambe dritte, la macchina appoggiata bene a livello è ma a livello e la muove questa qui fa ripresa tutte con la macchina che ho preso questo qui sta in una, anzi la seconda l'ho presa anche di più, quindi che sembra più una macchina più leggera eccetera eccetera. Mancano mai, adesso c'è tante, l'altra leggera, va bene, io devo girare la pentola, non dall'altra parte ma quello che è il contenuto, e poi se comincia a mangiare, e se mangio presto oggi me ne vado in giro. E fai bene, guarda, non nessuno ti piace a casa, sei padronissimo di fare quello che vuoi, perciò vai pure. Ho fatto il salto l'altro giorno e già ti ho raccontato che fa schifo, fa schifo, non sono riuscito neanche a far scendere a Linda dalla macchina, guarda, avevo paura che si fuggisse da qualche parte e sono andato con l'idea di andare a prendere pigne, ma che non ci sono riuscito, ho preso la macchina e me ne sono andato, è uno schifo, ma sai cosa vuol dire schifo, raccomandato, io faccio la passeggiata al Ghero nella nuova c'è una bella passeggiata grande, bella, tutta pulita, tutta in ordine e anche Linda si dondola tutta, guarda, se proprio si compiace che lei ti fa tutti i complimenti, fai tu. La verità è quella. Va bene, ciao, che giro di metà pranzo. Saluti, buongiorno anche a voi e statevi bene. Ok, chi c'è, chi non c'è, saluti a tutti. Ciao. Ok, ciao, non ci sentiamo nella puntata. Sono rimasto da solo, anche io saluto gli amici che sicuramente saranno in ascolto. A Tonino, a Luca, a Franco e Teresa naturalmente che anche lì sarà l'ascolto. Evidentemente se c'è il flanco anche lì all'ascolto. Ci sentiamo, io ho finito tutti. Quando la cambiate tutti, ciao, saluto a tutti, nuovo tanti auguri. Già Franco sta passando i QRT e vi saluto cordialmente tutti e quattro, con 351, va. Ciao da carica batteria, magari ce l'hai ascolta stasera oppure domani. Ok, salutemi ancora e tanti auguri. Ciao ciao. Ok Franco. Ricambia tutti i 400%. Io non ti ho rilanciato perché avevi detto che stanno facendo auguri, no, poi tu non hai. positivo, stavo appena di essere uno spilotto praticamente, l'ollaro, ho finito e vado a fare carica, dai, te la riascolta alle prossime, tanti auguri ancora, ciao a tutti. Ok, ciao.